Sono molte le persone che vengono appunto nella città in quanto richiedenti asilo e rifugiate. In questi anni l'amministrazione comunale ha attivato un tavolo di coordinamento con tutte le associazioni impegnate per la tutela dei diritti dei richiedenti asilo e rifugiati, dal centro Astalli alla Casa dei Diritti Sociali, dalle realtà come il CIR, cioè il Centro Italiano Rifugiati, allo stesso ACNUR, che l'Agenzia delle Nazioni Unite, che collabora con noi insieme a tante altre realtà del volontariato, dell'associazionismo impegnate in questo senso. In questo quadro abbiamo realizzato un'iniziativa nuova per la nostra città, cioè un centro dedicato alle vittime di tortura. Noi abbiamo una rete di accoglienza dedicata ai richiedenti asilo di 550 posti di accoglienza, ma in questa esperienza abbiamo visto che purtroppo accanto al dramma del dover lasciare la propria terra, il proprio paese, perché vittime appunto di situazioni di violazione dei diritti umani, di conflitto, intorno a questo dramma c'è anche un dramma ancora più grave, più profondo, che riguarda tante persone che scappano dal proprio paese dopo aver subito delle torture. E rispetto a queste necessità, a questi bisogni, appunto abbiamo creato un centro. Si tratta di una struttura, di una casa con 16 posti di accoglienza, cucina, lavanderia, spazi comuni, e uno spazio invece dedicato proprio all'associazionismo, quindi alla possibilità di avere un centro di riferimento che sia quindi in grado non solo di intervenire per gli ospiti della struttura, ma per tutto il circuito di accoglienza, quindi ben più ampio, che comprende la città di Roma. In sostanza avremo delle equipe che come dire, hanno un supporto di carattere legale, supporto psicologico, supporto sanitario, supporto sociale, che aiuteranno, sosterranno le persone ospiti di questa accoglienza e saranno anche a disposizione di tutta la rete cittadina di centri che si occupano di sostenere le persone richiedenti asilo e rifugiate. Trova spazio all'interno di un progetto che è un progetto dell'Unione Europea, dell'iniziativa comunitaria Equal, e quindi è stato finanziato grazie al contributo di questo progetto europeo e grazie anche al Piano Nazionale Asilo, che dedica una parte dell'8 per mille dei fondi destinati allo Stato proprio al sostegno alle persone richiedenti asilo e rifugiate.